La versione di Oscar, di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friends. Beautiful friends, buon pomeriggio, eccoci in diretta 16:34, primi 3 secondi qui dai studi Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi ringrazia di essere all'ascolto della sua versioncina quotidiana, ringrazio a quelli che naturalmente ci ascoltano anche in podcast, e va subito al tema del giorno per consentirvi di chiamarci all'800 24 00 24, il numero degli sms lo sapete è 349 238 6666. Oggi parliamo di un tema che è molto diffuso negli studi professionali e riguarda gli avvocati soprattutto, ma non solo gli avvocati, riguarda il difficilissimo accesso che c'è per i giovani. Moltissimi di questi giovani finiscono per anni, qui non stiamo parlando di qualche settimana, qualche mese, anni, a svolgere prestazioni professionali presso lo studio che diventano sempre più equiparate a quello dei soci di studio, degli associati e degli aiuti, ma in buona sostanza con nessuna tutela e bassissima retribuzione. Oltretutto svolgono anche funzioni poi dalle fotocopie, eccetera, segretariato, di tutto in parole povere. Però questa maniera di vivere per anni, sottolineo, l'inizio di una vita professionale in attesa che maturino magari a seconda di come sono organizzati gli studi, le prospettive per essere associato e così via, è diventato nelle libere professioni l'altra faccia che nel mondo del lavoro dipendente è il precariato, perché ovviamente la prospettiva è quella di protestare poco o niente e di non sottrarsi di fronte a livelli di retribuzioni sempre più bassi, perché altrimenti naturalmente si perde poi la possibilità un domani di fare un scatto verso il riconoscimento pieno della professione nello studio. Però questa cosa, più volte sollevata anche in Parlamento in occasione di provvedimenti di liberalizzazione generale della professione che contemplavano un regime diverso e più garantito verso i giovani all'inizio della professione e gli studi professionali, ha regolarmente poi registrato, al di là di qualche affermazione di circostanza, una fortissima resistenza da parte delle associazioni di rappresentanza del mondo forense, perché come è evidente questa modalità da una parte continua a essere un ostacolo al libero accesso alla professione, dall'altra e di una qualche, per così dire, utilità per il bilancio degli studi e degli associati. Allora abbiamo deciso per una volta tanto di occuparci del precariato nelle libere professioni, un pezzo quindi di lavoro autonomo, come sacrosantamente è giusto occuparsi anche del precariato poi nel lavoro dipendente. Sapete che giusto ieri in commissione lavoro alla Camera dei Deputati è stato sostanzialmente rivisto il decreto legge Poletti che interveniva sul tempo determinato e sull'apprendistato. La revisione fatta in commissione lavoro alla Camera ha ripristinato esattamente molte delle cose che il decreto aveva cambiato rispetto alle norme vigenti. Non tanto per me, la modifica non è tanto rilevante per la parte pure modificata su i nuovi vincoli rispetto a quelli che erano stati allascati dal decreto nelle quote riservate alla durata e alla reiteratività dei contratti a tempo determinato, quanto invece sull'apprendistato praticamente si è smontato tutto quello che si diceva nel decreto legge Poletti. Ma oggi ci occupiamo, in attesa che esca dal Consiglio dei Ministri, che è in corso il testo per il meno IRPEF ai lavoratori dipendenti, solo ai dipendenti fino a 26.000 euro lordi di reddito, per gli autonomi niente, ma in attesa di vedere quel provvedimento che conterrà, lo vedrete, sono attese anche poi norme molto concrete su tagli a pubblica amministrazione, ai dipendenti pubblici, eccetera eccetera, però in attesa di vedere quello, e contiene anche la norma di aumento della tassa sul risparmio al 26%, oggi parliamo di questo tema qua, dei precari negli studi professionali, ed è con noi per parlarne un padre che è preoccupato esattamente per la condizione in cui si trovano due giovani avvocati, e ci ha scritto proprio in quanto padre, e a me questa cosa è piaciuta molto. Io di questo padre, per non ledere in alcun modo i due giovani avvocati di cui parliamo, però faccio il nome, ma ho deciso di non fare il cognome, perché non vorrei mai poi che, per parlare partendo da questa storia concreta di un tema generale che riguarda migliaia di giovani professionisti in erba italiani, non vorrei mai poi provocare un danno ai due giovani di cui stiamo parlando, e quindi grazie di essere qui con noi, di averci scritto a Renato. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, qual è che cos'è che la preoccupa, Renato? Allora, il motivo di questa mia telefonata è che vorrei far presente che il mondo del lavoro non è composto solo da lavoratori dipendenti di imprese, ma anche dal mondo del precariato, che oggi rappresenta tra gli altri anche tutta una serie di giovani professionisti che lavorano spesso in monocommittenza in condizioni di abbandono da parte delle istituzioni. E mi riferisco in particolare ai giovani avvocati, ma anche agli ingegneri, commercialisti, architetti, eccetera. Questi soggetti, che sono la parte intellettuale del lavoro, non dico la migliore, ma quella parte del mondo del lavoro che dovrebbe costituire l'elite produttiva e che si ostina a rimanere in Italia. Lei lo sa che nel definirla elite arrivano immediatamente gli SMS che dicono non ci sono elite. Sì, vabbè, ma non ha importanza. Ma voglio dire che questi non godono di nessuna delle garanzie sociali e previdenziali dei dipendenti e hanno un reddito inferiore a questi, oltre che non garantito. Infatti, in particolare per i giovani avvocati, il compenso che il titolare dello studio corrisponde al giovane professionista, che poi tanto giovane non è, visto che dopo la laurea ha dovuto lavorare 2 anni come praticante, normalmente non retribuito, poi sostenere gli esami di Stato, la cui durata tra scritto e orale prende un altro anno e non è detto che vada bene alla prima o alla seconda volta. Il compenso, dicevo, va da 600 a 1.200-1.300 euro, ma i 1.300 euro si percepiscono dopo diversi anni di lavoro, per 10 ore di lavoro al giorno, per 5 giorni e mezzo alla settimana. A fronte di ciò non esiste garanzia di mantenimento del posto in caso di malattia, gravidanza e comunque a prescindere. Ferie e permessi retribuiti non esistono e quindi non vengono pagati. Non esiste TFR di nessun genere. In caso di maternità la cassa forense corrisponde una tantum l'80% dei 5 dodicesimi del reddito IRPEF netto prodotto nel secondo anno anteriore al verificarsi dell'evento. Siccome per i giovani professionisti il reddito è minimo, percepiscono di conseguenza l'indennità minima pari a 4.626 euro lordi meno il 20% di ritenuta da conto per un netto di 3.700 euro. Questa è la maternità. I contributi da versare alla cassa forense sono naturalmente a carico del professionista stesso e sono variabili da un minimo, di cui poi se volete vi faccio la specifica, a cui si aggiunge la parte variabile in base al reddito. Tra gli ulteriori costi c'è il compenso al commercialista, l'IRPEF e l'IRAP. In relazione ai contributi minimi obbligatori vorrei inoltre segnalare una circostanza alquanto singolare, e cioè i contributi minimi sono da versare alla cassa forense qualsiasi sia il fatturato, ma se il fatturato è inferiore a determinati parametri stabiliti dalla cassa stessa, oltre al danno c'è la beffa, perché i contributi che hai comunque dovuto versare sottraendoli al già esiguo reddito non saranno conteggiati ai fini contributivi previdenziali. Ma non basta. Infatti, se il giovane professionista guadagna troppo poco, rischia pure l'accertamento tributario per non congruità con gli studi di settore. Esatto. Ma non c'è limite al peggio. Succede che se il giovane professionista, spinto dalla buona volontà, o meglio dalla necessità di aumentare il suo reddito, chiedesse ed ottenesse dal titolare dello studio di poter seguire qualche pratica per conto suo, magari per qualche vicino di casa o cose del genere, per cui oltre alle 12 fatture annue per un importo totale di 10.000 euro, emette anche un paio di fatture per 2 piccoli clienti che è riuscito a trovare, allora l'agenzia delle entrate che fa? Gli dice: tu non lavori solo per lo studio, ma hai anche altri clienti, per cui i parametri degli studi di settore vengono aumentati se non raddoppiati. Ora, la domanda che io come padre rivolgo a chi può rispondere è la seguente: è questo il modo in cui lo Stato tratta i suoi laureati, che si sono impegnati nello studio con sacrifici loro e delle loro famiglie, che hanno pagato tasse ormai sempre più care dell'università e che cercano di migliorare se stessi, migliorando nel contempo anche il Paese? Allora, aspetti un secondo, poi la lascio perché le ho lasciato già 3 minuti di seguito, ma però lei dice lo Stato riguarda naturalmente la parte che lei ha elencato di come è organizzato il regime contributivo e così via. L'impressione è che anche alla professione, a chi fa rappresentanza associativa della professione, una professione dove in Italia poi siamo iper overstaffata, perché abbiamo 270.000 avvocati in Italia che rispetto a qualunque altro paese avanzato c'è un numero veramente trascendente ogni possibilità di immaginazione. Ma detto questo, l'impressione è che sia anche una cattiva abitudine che ai professionisti arrivati, a moltissimi di quei 270.000, non dispiace per niente, o sbaglio secondo lei? Certo, però a chi sta a stabilire le regole? Non può essere lasciato alle parti, perché le parti, se n'è una più forte che è il datore di lavoro, che è il titolare dello studio, e c'è la parte più debole che sono i giovani professionisti. E qui torniamo a un punto, perché in Parlamento, quando ci si è provato, proprio la professione forense, che è la più rappresentata insieme a quella medica nel Parlamento, è un blocco trasversale, agisce a prescindere dalle formazioni politiche, e su cose come queste è capitato l'ultima volta, è capitato tre volte dai tempi di Bersani ministro in poi, esattamente sui tentativi di intervenire su questo particolare aspetto della normativa sui tirocini pagati, eccetera, cioè sull'avviamento ai giovani negli studi professionali, e hanno sempre vinto loro in Parlamento, purtroppo. Quindi qui c'è, certo, c'è la politica e lo Stato, però secondo me è un classico esempio in cui l'Italia iperlobbizzata finisce per non riuscire a fare norme di interesse generale, perché il peso delle lobby è molto molto molto forte. Questa è l'area di Confindustria, io sono per il mercato, ma in questo caso il mercato non funziona, perché secondo me anche chi rappresenta, vogliamo dirne uno, l'avvocato Alpa, appena nominato guarda caso nel consiglio di amministrazione di Finmeccanica, ecco, l'avvocato Alpa è portatore di istanze che in Parlamento, certo ha sempre vinto lui, dicono: ma lasciateci alla nostra libera organizzazione su queste cose qua. Allora io l'ho interrotto semplicemente perché questo è un altro aspetto di cui tenere conto, nel mentre io sono d'accordo con lei che le norme pubbliche, quelle poi contributive, sono molto penalizzanti, però c'è un aspetto di cui guardiamoci in faccia, c'è un aspetto che riguarda anche le propensioni e le scelte, le convenienze del mondo professionale italiano, di quelli che sono affermati e che naturalmente hanno gli studi in mano. Siamo in ritardo per l'informazione stradale, torniamo tra 60 secondi. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta, 16:48, primi 59 secondi. Devo dire, una quantità di sms arrivati impressionante, eh? Impressionante, ne leggo alcuni in fila, un po' di corsa. Questo è lavoro subordinato in nero legalizzato, ci dice Marco. Stefano da Modena dice: per i commercialisti rispetto agli avvocati è ancora peggio. Poi un altro dice: questa è saturazione del mercato, l'effetto di avere troppi avvocati, troppi commercialisti, troppi consulenti o fiscalisti. Oppure anche gli architetti, un altro ascoltatore, stanno sulla stessa barca, dondoliamo tra partita IVA e finta dipendenza, con tutti i contro di non avere nessun tipo di contratto, ma sottostando ad un trattamento da finto dipendente solo per quanto riguarda gli obblighi. Paolo da Ferrara: caro Giannino, non è una novità, l'Italia è una repubblica democratica fondata sull'ipocrisia, da sempre belle libere professioni, però si fanno nelle libere professioni, scusatemi, si fanno gavette ultraventennali, posso assicurarlo da ex architetto, e così via. Ce ne sono tantissimi altri che non leggo, ce ne sono parecchi anche contro gli ordini professionali, non dovete convincere me, sapete che io sono un anti-ordinista da liberista impenitente. Ma sentiamo anche, prima di tornare al nostro ospite, Renato, padre preoccupato di due giovani avvocati, di cui vi ha descritto per alcuni minuti a cosa devono sottostare, a quanto poco reddito e molti oneri e anche il fisco addosso per così tanti anni. Sentiamo alcuni di voi come la pensano, che esperienza hanno. Cominciamo con Matteo, che ci chiama da Brescia. Prego, Matteo. Matteo, in linea. Buongiorno, buon pomeriggio. Piacere di sentirla. Niente, io ho fatto la mia esperienza, perché anch'io sono 38 anni e sono avvocato da circa 5 anni, la stessa gavetta, e devo dire che quello che pesa di più è sia l'aspetto contributivo che il fisco, perché il fisco, con la riforma che è stata fatta dei minimi che sono stati fissati a 5 anni, una volta che finiscono questi 5 anni il regime contributivo mio, passare all'IVA ordinario, se uno non ha un volume d'affari di almeno 30-40 mila euro, con un fatturato di 20-25, che è la media che hanno gli avvocati tra i 30 e i 40 anni, è veramente dura andare avanti, perché le tasse sono tantissime, i contributi, come ha detto il signor Renato, sono quelli, sono un minimo, quest'anno sono 3.900 euro il contributo minimo, che è lo stesso che ho sia io che ho un fattore di tra i 20 e i 25, sia i colleghi che guadagnano 60, 80, fino a 90 mila euro. Poi c'è il variabile, chiaramente, che va sul, è il 4% delle fatture, la cosiddetta tassa CPA, la borsa CPA. Aspetta, ma Matteo, ti interrompo semplicemente per fare riflettere chi è in ascolto. Voi capite che se il contributo minimo così elevato non ha soglie di progressività, perché è uguale per chi sta a meno di 20.000 euro e che per chi è due volte sopra, voi capite che questo è uno dei cardini, secondo me, violati per i giovani professionisti, perché stiamo parlando della capacità contributiva, cioè di quello che in teoria è tutelato dall'articolo 53 della Costituzione. Ecco, Matteo lo ha messo in una maniera, come ovvio, in fila di corsa, in una telefonata, però a chi magari non è un giovane professionista o non conosce le caratteristiche della professione sfugge che qui siamo in presenza di una palese violazione costituzionale. Matteo, eppure si va avanti, tu vai avanti, non è che ti sei fermato. Per forza, perché ho cercato più volte nel corso degli anni di cambiare professione, ma si sono chiuse tutte le porte perché... Ah, tu hai cercato di cambiare a un certo punto? Certo, ma superati i 30 anni non ti prende più nessuno, le banche non assumono, certo. Spero che non hai conoscenze, non sei figlio di qualcuno, le assicurazioni non assumono più, le società di recupero crediti sono l'alternativa, ma anche lì lo sfruttamento è massimo. Ma hai insistito sullo studio iniziale o ne hai cambiate? No, io ho già cambiato 3-4 studi, e ho girato anche due città, sono passato da Milano, dove facevo il pendolare, da Brescia per 3 anni circa, però è stata un po' dura. E poi ho fatto 4 volte lo scritto, perché è un terno all'otto, e poi l'ho passato. E poi l'hai passato. Va bene, grazie Matteo. Sentiamo Vittorio. Vittorio ci chiama da Milano. Prego Vittorio. Salve signor Giannino, niente, meno male che hai dato un po' di spazio anche a noi poveri liberi professionisti che abbiamo scelto l'incertezza, la certezza di un lavoro fisso. Ecco, niente, intanto va bene, non so, le faccio un esempio, io sono un fotografo, un professionista, lavoro per riviste, eccetera. Come sapete le riviste praticamente chiudono una al giorno, ci siamo ritrovati con decine e decine di riviste chiuse, quindi il budget si è abbassato tantissimo. Non si aggiunge mai quella soglia fatidica che state dicendo, appunto, questa della la soglia del coso. Ecco, però l'altra cosa incredibile è che, per esempio, vado a fare dei servizi, sto camminando, mi perdoni per il fiatone, sentiamo dal fiato. Vado a fare dei servizi, per esempio, che ne so, Mosca, le faccio un esempio, devo anticipare 600 euro di notte spese per la rivista, quando torno devo fare una fattura al giornale, perché questo me lo obbliga lo Stato, per riavere i miei soldi. Cioè io non contribuisco con quello che guadagno, ma addirittura con quello che ho speso di anticipo per una rivista. Quindi io non posso scaricare nulla, perché a Mosca ovviamente ci sono ricevute, cioè si usano taxi senza cose nella metropolitana, eccetera. Quindi io devo pagare anche le tasse su questa roba qui, cioè sui soldi che ho anticipato, che è una cosa vergognosa. Io non ho capito chi ha inventato questa manovra. Cioè io devo, per riavere i miei soldi, fare una fattura. Una volta, qualche anno fa, io davo tutti gli scontrini al giornale, che brevi mano, loro dopo un'attenta e scrupolosa cura nel vedere se abbiamo speso di più o cose eccetera, cioè, mi davano i miei soldi, basta, questa era la prassi. Poi è venuta fuori questa roba che mi distrugge, cioè praticamente tra tasse del compenso che si sono dimezzati e tasse che devo pagare per riavere i miei soldi anticipati, io guadagno niente. Allora io sono nel caso, perché è ovvio che non ci conosciamo e queste telefonate arrivano, Vittorio, io siccome sono lavoratore autonomo, partita IVA da una parte, poi ho due micro società, però con le aziende editoriali per cui lavoro, che sono diverse, perché non sono dipendente, con una, siccome faccio anche l'inviato, scrivo eccetera, incorro esattamente nella cosa che lei ha appena descritto, pagare l'IVA, che naturalmente a quel punto tu anticipi ormai che ti abbiano pagato anche del pezzo che hai scritto, dell'inchiesta che hai fatto, ma pagare l'IVA su ciò che hai anticipato dei costi è veramente una roba che... Per me, che sono nella sua stessa situazione, la capisco al volo. Da fuori non sono convinto che si capisca quanto è ingiusta, però ahimè siamo esattamente in queste condizioni. Grazie anche a Vittorio. Torniamo a Renato, ma i suoi giovani avvocati, di fronte a questo come reagiscono? Stringono i denti e vanno avanti? Vogliono anche loro loro pensare a mollare, a cambiare, oppure no? Guardi, la tentazione è forte sicuramente, la strada dell'estero è sempre più un richiamo sempre più forte, però anche loro hanno cambiato diversi studi. Pensi che in uno degli studi che hanno cambiato loro cominciavano a lavorare alle 8 del mattino, il titolare arrivava a mezzogiorno e cominciava poi a correggere gli atti dei giovani professionisti alle 8 di sera, e quindi questi tornavano a casa alle 11 di sera. Quindi queste sono le condizioni di lavoro dei giovani professionisti, che non vengono né capite né credute dai dipendenti o da altre persone, perché c'è un'impostazione mentale diversa. Allora, un po' poi questa gente con gli anni va avanti, comincia a farsi una famiglia, comincia ad avere dei figli, quindi sono un po' legati, perché come giustamente diceva il Matteo, mi pare che è intervenuto, Matteo. Poi alla fine la laurea in giurisprudenza, ed è qua che io richiamo lo Stato, la laurea in giurisprudenza non è eccessivamente spendibile, no, per cui lo Stato secondo me è colpevole due volte, al di là dell'ordine professionale che tutela però giustamente i propri interessi, ma lo Stato non ha agito da arbitro, tra datore di lavoro. Due secondi e poi? E poi non ha dato le linee guida quando questa gente andava all'università o si iscriveva, come è stato fatto per la per vita. Consentirgli davvero di fare buona scelta. Io devo interrompere Renato, continuate su Radio 24, intanto da parte mia buona Pasqua e basta Stato ladro!